Avviene talvolta che per elezione dei superiori, nei monasteri pianta elevata e fruttifera nei giardini della religione, ha meriti per sovrastar degnamente ad ogni altro di superiorità. Non ambisce, anzi, rifiuta il carico, come quello apertamente conosce che gli orrori sono arrivati all'estremo peso nelle trasgressioni della regola. Ma perché è così proprio degli uomini il pensar male? Mi dichiaro che non vorrei dassero sinistro senso e censurassero con danno delle anime loro i detti miei. Altri, se non meritevoli, in quanto all'osservanza d'animo, però abbastanza aggiustato e non fraudolente, conoscendo la gravezza del peso e la malignità del vivere, destramente si sottrae dal governo, onde appunto bisogna ad altra cedere il dominio, che a quelle parole, impera nobis, si gonfia e ti insuperbisce dell'onore indegnamente fattole, come il fastoso pavone della ruota delle occhiute sue piume, quando, appunto, a guisa di detto animale, dovrebbe dare un'occhiata ai piedi sozzi della sua bassezza e viltà, e tu in mente gridare, Dominus, non sum digna. Non così però avviene, anzi, fa che ognuna partecipi di sue frodi, semina ogni loco di discordie infernali e lasciasi guidare dalla parzialità. Ha dimandato Solone come doveva essere colui che governa un popolo. Rispose: costui deve saper prima dominare se stesso, altrimenti sarà come quelli che volesse far apparire un'ombra retta con una verga obliqua. Veramente, se un esercito fosse guidato da un inaspettato, anzi inesperto nell'arte militare, su un imperito di musica volesse guidare un concerto canoro e tu una nave fosse condotta da chi non sa navigare, tutto precipiterebbe, così come un priore o abbadessa che abbia vestito l'abito monacale non chiamata dallo Spirito Santo, non istruita negli ordini e regole religiose, ma solo goda il titolo di superiora, come fatta l'una, a null'altra cosa maggiormente applicandosi, quanto che, finito il triennio della dignità, d'essere di nuovo in quel grado confermata. In quel grado trascura gli errori, non provvede ai falli, non corregge i difetti, e in un certo modo concede libero il corso alle voglie della gioventù. Il governo, in taluno dei monasteri, talor non è concesso a chi più lo merita, ma a chi più l'ambisce. E chi astutamente il possiede, o per arte o per fortuna, si fa parzial delle più scaltre, non muovendo, si può dire, un passo, senza finger di prendere da loro il consiglio. E così non solo non osservano il precetto di quel savio filosofo, ma effettivamente permettono degli abusi. Ad una parte delle più libere e scapestrate, invece di correzioni, portano aiuto e favori, e con altre, fingendosi cieche, mostran di non vedere gli scandalosi deportamenti, anzi li scusano e commendano per semplici. Ma qual maggior disunion può darsi fra chiostri se ognuna vive secondo il suo appetito e ciascuna dell'involontaria dispone della volontà propria a suo talento? Quante saggiamente fingono di non udir gli spropositati concetti contro di loro proferiti, quali però non restano di trapassarle mortalmente l'anima. All'insolenza di simili tratti corrisponde ogni loro azione, sì che è facile immaginarsi con che sentimenti siano questi termini sofferti da quelli a cui non manca esattezza di cognizione. O quante effettuano sfacciatamente in pubblico tutto ciò che detestano nell'altri, appunto con pubblica e tale insolente malvagità che con le continuazioni basterebbe a far deponere la pazienza ad ogni più flemmatica e rimessa mente. E perché la nostra depravata natura è sempre più pronta e inclinata all'imitazione del male che del bene? Non si tosto espirato il terzo giorno dei tremendi voti e sacramenti che viene ammessa fra le professe la novizia, e tosto facilmente apprende qualità da queste antiche e malcontente religiose, fra quali praticando viene a verificare in se stessa quel detto dell'ecclesiastico qui tetigerit picem inquinabitur abeat. Già, già scordatasi il culto religioso, comparisce anch'ella immascherata, e farsi partecipe di quegli errori che, dopo la professione, le vengano dall'uso liberamente concessi. Quivi la vanità comincia ad entrarle nel cuore, introdotta per gli occhi come quelli che di tutte le insidie che all'anima son poste e di tutte le reti che son le tese, son la potissima causa. Veggiono altre abbellite d'abiti vani, onde si imprimono nell'animo desio poco onesto di imitarle e anche superarle nelle invenzioni del vestire, al quale danno con l'operazione il compimento. Tanto più che lor non mancan suggestioni di molte, che per aver compagnia al mal fingasi amiche. In questa sorte di falsa amicizia che tira l'anima al precipizio e con pessimi consigli offende il corpo, asserisse Sant'Agostino essersi incontrato nell'età sua fiorita, onde di lei el dice: «O nimis inimica amicizia, et seductio mentis investigabilis, cum dicitur, e amus faciamus, pudetque non esse impudentem». Questi sono i progressi di quell'azione tragica che nel principio m'offersi farvi vedere rappresentata, i cui fini altrettanto son mesti quanto dal cielo borriti. Le antiche rappresentazioni non hanno altra mira che di tacciar ogni operazione delle novelle istrioni. Se vedon che le levino un occhio di terra, dicon balenargli sguardi impudenti, anzi impudichi, cognoscan la fessura sulla paglia, anzi pupilla di lor sorella, ma nulla consideran alle travi che alla vista le si interpongan. Taluna di queste è sì di cognizion priva che, capitandole all'orecchie di quelle voci, ad ogni uno profittevoli, nosce te ipsum, se stiman un favoloso raccordo. E perciò, senza prudenza e conoscimento, va rimproverando all'altre quei difetti nei quali elle più di ogni altra involte si trovano. Sì che le gare della gioventù e vecchiezza, i risi e motteggiamenti sopra l'etadi sono i primi fomenti e fondamenti delle male volontà. Una che nel numero degli anni sopravanzerà ad altra, in guisa che madre potrebbe esserle, con pari umori di giovane moltiplica, a lustri, con bugiardi e stolti accenti, gli anni di colei che potrebbe esserle figlia, servendosi del detto del gentilissimo Ariosto, che a donna non si fa maggior dispetto che quando brutto vecchia le vien detto. Quella che volse però pretendere di passare i congressi senza frammischiarvi qualche paroletta mordace, farebbe vanità, trapassan talor col vezzoso sorriso le noiose proposte, che irritano l'animo, per usar prudenza, ma non perciò resta nutrirsi nell'interno fuoco sdegnoso. Parendo molto strano a chi l'occasione fugga d'offendere altre, sentirsi, come dir si suole, spropositatamente ungere a sangue freddo. È troppo duro il sentirsi sovente rimproverar da una cloaca di vizi, da una infimissima di quei mancamenti non commessi e che in ella stessa sono eccessivi. Questo è sì periglioso, golfo di naufragio, che è degno di gran lode quell'intelletto che ad incessante continuazione d'onde così tempestose non si lascia dallo sdegno absorbere ai precipizi. Su quelle tragiche scene, però, per essere di diversi capricci i rappresentanti, di indegna presunzione, di umori stravaganti, non manca chi inconvenientemente introduca il ridicolo. Che ben degno riesce di riso il vedere taluna vilissima con la sfacciatezza della lingua oltraggiare, ignara d'onde traga l'origine, sostener la verga del comando, alla quale le di lei maggiori stanno soggette, con tutto che non l'abbia ottenuta se non mediante l'astuzie e la forza di quel metalo che unisce i cori anche più pudichi e che volge il monastero a suo modo con ingiustizie estreme e con inganni. Ve ne sono che appaga ogni sua volontà e ogni sua ambizione, favorite da quella cieca fortuna che sempre aderisce là dove più di vizio e di viltà, e con larga mano dispensa sole grazie a chi ne è immeritevole. Che così riesce impossibile il mirare senza riso su questa scena gente vilissima appropriarsi titoli solo decenti a gravi soggetti e con sprezzanti parole rappresentare appunto un Zane da principe travestito. Il viver d'oggi, in taluno di questi chiostri, è poco dissimile da vivere a corte, che, se questa può dirsi raccolta d'uomini depravati, quelli dirsi ponno ricetti di donne disperate. Se ivi una moltitudine di viziosa gente, sagace, di corrotti costumi, altro non esercita che invidiosa concorrenza, qui pur anche trionfa l'astuzia, regna la superbia di chi meno duria pretenderla. Volano l'altezza e la boria in ogni parte, la lascivia nel vestire, in tal claustro non ha freno, là, perfida e continua, l'ira è sempre in pronto. Quivi, infine, venga le più semplici burlate, le sincere tradite, le virtuose vilipese. Non manca nelle corti iniquitudini fra gli ambiziosi, risse fra i maliziosi, invenzioni di ciarle fra i maligni, né pur da quelli a chi vengano attribuite immaginate, frappatori che le raccontano, iniqui che l'attestano e quelle evangeli che comprobano. Sono nei monasteri, fra finte e forzate, monache, i costumi simili. Onde m'è forza replicar che l'estremo giorno gli istitutori delle veraci religioni compariranno in giudizio contro queste, non religiose ma disturbatrici degli antichi ordini, esclamando Nec nos patres, nec nos fili. Io non istituii religioni di ipocriti, dirà Francesco. Io non pretesi esser padre di superbi figli, griderà Domenico. Io col viver povero lasciai esempio di povertà, esclamerà Geronimo. E tutti uniti diranno: le leggi da voi osservate già non furono le nostre sante regole, ma sforzate dalle ingiuste leggi del mondo, in mille modi che con violenza ivi vi sigillano, l'avete e depravate e deturpate. Noi giammai non fabbricassimo tempi dove il tutto è simulato, ogni cosa si concede e si ammette ogni male. Dove l'iraconda trova con chi sgridare, la maligna con chi maloprare, la golosa con chi crapulare, l'avara trova il modo d'accumulare, l'insolente cui portar noia, la pazza con chi contendere, l'arguta con chi raffinare l'intelletto. Non manca alla semplice chi l'inganni, alla vivace chi seco di continua scherzi. Non fur queste, diranno, le nostre istituzioni, né noi fossimo maestri di sì infami scolari, né padri di sì iniqui figli. Che non solo non fur degni parti di religione, ma furono ributtati dal mondo come illegittimi, elevati dal procelloso mar delle contentezze mondane, per dover poi restar infelicemente absorti dal torrente, dalla disperazione, per esserne stati privi da padri tiranni. Tali saranno le voci che i gloriosi beati manderanno innanzi al tribunal della suprema maestà. Si consideri che sia per succedere delle loro misere anime, mentre verranno rifiutate come vittime indegne d'essere offerte a Dio. Come, salmeggi nel coro, o sposa di Cristo, se il cuore sta di continuo vagando. Ciò volesse riferire Isaia quando degli ipocriti disse «Populus hic labis me honorat, cor aute meorum longe, est a me?» E quando mai ti maceri la carne, o monaca solo di nome? Ov'è la penitenza dei peccati, lo sprezzo del mondo, il contentarsi di poco? Ah, mio Signore, dissi, paverunt legem tuam. Ma di nuovo si introduca in scena il principal personaggio della monaca, qual, già divenuta professa, comincia ad andar con più libertà alle finestre, alle quali sente tal ministro del diavolo che leva sentimenti tali insinuando: già avete fatta professione, perciò non dovete più da nessuna temere, essendo fatta padrona di voi stessa. Con tali sproni al fianco, la misera si sceglie di rappresentare nella scena del monastero qual parte più le aggrada o qual più le inclina il proprio genio. Altre, tutte si danno all'amor proprio, non ad altro applicandosi che a soddisfare a se stesse negli agi del corpo. Altre, non altre che i propri capricci e inclinazioni vogliono per superiori. Una è dedita all'avarizia, altra alla perfidia, molte alla malvagità e agli odi. Insomma, fra tutte è compartito ogni difetto, ed alcuna tutti uniti li possiede, come i comici per ordinario sogliono essere vilissimi di condizione, di costumi abietti e pieni di vanità, così queste, che per rappresentanti entrano nella monacal tragedia, depongono non solo i talenti e le complessioni, ma anche l'istessa condizione, e vengano a partecipar del maledetto genio degli uomini. Né per conoscere se questa sia infallibile verità abbiamo bisogno di sentenze e pareri di uomini savi, poiché effettivamente si vede le sagge divenir pazze, le modeste invereconde, le pazienti iniquite, le umili altieri, le sincere libere maligne e doppie, le nobili vili, le miti furiose, quelle di poche parole loquaci, le occupate ai lavori avvezze e vagabonde, le infocate d'amor divino fredde, accidiose e poco buone religiose, e tutti questi gravissimi disordini nascano per la violenza fatta al da perfido viril sesso. E perché il loro vivace e vagante intelletto, che di sua natura vorrebbe diffondersi in ogni parte e spaziare in ogni clima, a forza ristretto, s'applica tutto a nutrir mali pensieri e a produrre alla disperata operazioni peggiori. Non può essere che sia claustrale quel cuore le cui membra solo a forza riposansi fra mura. Così la meschina, guidata da infida scorta di tristi consiglieri, comincia a dispogliarsi la veste dell'innocenza e di pecorella che l'era diviene astutissima volpe. Molte consigliano ciò che esse non eseguirebbero, perché poi lor saprà dito maggiore di perseguitarle consigliate. Il filosofo morale, in una delle sue epistole, dice che la romana repubblica aveva altrettanto dei bisogni di Catone, a ciò con i suoi consigli la governasse, quanto ne avesse di Scipione Africano, a ciò con l'armi la difendesse e conservasse. Ben ponno chiamarsi fortunati, anzi santamente felici, quei monasteri che sono da sagge e degne vecchi abitati, che sanno nei più ardi negozi con quali consigli trovar ripiego e riparo agli imminenti disordini. Ma, per contrario, guai a quei conventi che, retti e dominati da femmine d'età matura, ma di senno acerbe e indisciplinate nel vivere. Possono chiamarsi sinagoghe, poiché le giovani, obbligate a credere esattamente alle loro superiori, senza colpa incorrono nei medesimi errori che vedono commettere alle loro maggiori, le quali, invece di mantenere come dovrebbero la povera religione nel suo rigore, divengano strumenti principali per sterminarla affatto, quando elle dovrebbero essere guida, specchio, esempio, norma e scopo, alla cui scorta, alla cui luce, alla cui imitazione e dal cui centro tirassero tutte le linee delle altrui operazioni. Si fanno inciampo al comune precipizio. Non tutte però sono di questa taglia, perché guai al mondo se non ve ne fossero di buone sante. L'esercizio di buona religiosa deve essere il lacrimare, non il chiarlare, orare, non dir male, riverire, non infamare, aiutare, non condannare, sollevare, non affliggere, trattar pace, non discordie, difendere, non tradire. Stimo che quando Dio Benedetto disse: Se debit populus meus in pulcritudine pacis, per il suo popolo volesse intendere la gente religiosa, che a questi tempi diversamente opera dalle parole e dalla volontà divina, perché le risse, discordie e simulazioni non han dei monasteri più sicuro ricetto. Eppure son quelle qualità che le levano al religioso il potersi vantar tale. San Paolo, allor parlando, disse: Cum sit inter vos zelus et contentio nonne carnales estis et secundum homine mambulatis? Non altrove più livida e maligna l'invidia, poiché taluna s'attossica di rabbia in veder la fortuna girar più felice la ruota per comodo della sorella, onde vien che apre il varco a quelle parole et operazioni che opprimer ponno l'invidiata da essa. Ed è proprietà, anzi essenza, dell'invidioso che tutte le altre cose gli paian migliori e maggiori. Ciò chiaramente comprovò il mantovano poeta: Fertilior seges est aliorum semper in agris, vicinumque pecus grandius Uberabet. E l'invidiosa, un infame mostro che con occhi di lince segue in ogni parte la perseguitata per poterle macchiare a sua voglia il buon concetto, e sovente non le ne manca occasione perché la nova professa, già già in tal labirinto inviluppata, comincia dagli altrui raccordi ad apprendere la scienza del mondo, ancorché ella sia quivi entrata, stante l'avaro padre per allontanarsi dal mondo. Sente una corisca che con scellerati consigli sì la persuade. Come gioia conserva i miei consigli, sappio diletta che anch'io chiusa forza l'arte del ben amar fanciulla appresi. Inoltre quel maledetto sesso che le racchiude, che non cessa tormentarli anche nei chiostri, sì le dice, dandogli norma d'un trattar lascivo, l'aver quando bisogna le lacrime a sua voglia, il sospir pronto e la lingua dal cor sempre diversa, l'inanimisce agli amori, con dirle che facilmente ogni scusa s'ammette quando in amor la colpa si riflette. Ma che, inoltrandosi a poco nelle delicatezze di corpo, si ingegna, quasi non conosca Dio, di satollare in certo modo il senso, dà in bando la religione, seguendo l'error di quei stolti dei quali cantò l'eruditissimo Marino, non è Dio, Dio non è privo di fede. Tacito, e fra suo cor dice lo stolto, stolto cui l'intelletto alzar disciolto ver la prima cagion non si concede. Dice l'iniquo, in su le stelle siede nelle cose mortali, ei cura molto, miser, né sa come qua giù rivolto, contro ogni foglia, e il tutto osserva e vede. Sentenze orrende, anzi bestemmie insane, signor, che tu non sappia e tu non sia, osan da fermar lingue profane, perché la destra tua tema non dia pena ai suoi falli in fra quest'ombre vane. L'empio sognando va quel che desia. Non s'accorgono queste infelici che erran di gran lunga, poiché l'occhio perspicacissimo del supremo motore non solo conosce e vede ogni atto interno ed esterno di qual si sia dei mortali, ma come giudice retto ed indifferente registra le partite dei suoi, siano amici o nemici, spose o serve, per severamente punir gli eccessi e remunerare i servigi, nulla trascurando e con parzialità perdonando a quelli che han titolo di suoi più cari. Così leggesi nelle antiche storie di molti principi che a null'altra cosa avendo riguardo che alla sola giustizia, non perdonarono la vita ai propri figli caduti nelle trasgressioni delle leggi da loro ordinate. Bruto, console romano, per essere integerrimo osservante d'intatta giustizia, sofferse con gran costanza di vedere i propri figli da lui condannati morir miseramente ad un legno legati. Lo stesso farà il monarca dei cieli, sentenziando indifferentemente quelle anime che si offesero con violenza corpi forzati e quelle che fur dedicate a suo culto, come inosservanti ed estruttrici degli ordini claustrali e come reprobe figliole e seguaci di Satanasso, non dei loro fondatori. Le cancellerà dal libro della vita, diseredando gli empi padri insieme con elle delle pretensioni che come sue figlie potevano aver del paradiso. Fine del libro secondo dell'Inferno monacale. Libro terzo. È tale la condizione di una perfetta eloquenza che con colori retorici così vivamente dipinge e rappresenta sulle carte qualcosa, sia che per l'ordinario, sia o in lode o in biasimo, restan più del merito i lodati, o biasimati, innalzati od oppressi. Io però, non già per far apparir più orridi di quel che siano i tormenti e le passioni atroci dell'inferno monacale, ma per descriverli qual sono, bramerei esser provveduta di stil fuori d'ogni solito eloquente. Ma povera di concetti ed inesperta d'ogni arte necessario a chi ben scrive, conosco non arrivar col rozzo intelletto ad ombreggiar neppure in minima parte le qualità di una vita ben sì racchiuse e a forza ritirata dal mondo, ma altrettanto sregolata a dispiegar le parti rappresentanti in questa vana et infernal tragedia, i tratti di donne religiose nel nome, ma nel cor et opere mondane. L'arte di tanti affetti tra loro e il viver simulato e chimerico con tanta abbondanza di scandali ricercherebbe altra facondia che la mia, mentre anche ogni più ricca vena riuscirebbe in feconda e t'infaconda in descriver sì gran massa di difetti, alla cui narrazione sarebbe necessario un cuore ed una mente macchiati della medema pace, che son quelli che causan sì gravi disordini nella Chiesa di Dio. Quale eloquenza saprebbe mai ridire, quale ingegno penetrare le passioni di quell'animo al quale, astretto da tirannia paterna, conviene a suo dispetto tutto il tempo di sua vita trattar con scempie, servire ad ingrate, chiedere ad avare, trafficar con bugiarde e conversar con superbe? Il pretendere di poter riferire un puntual racconto delle diverse particolarità di tanti ingegni sarebbe un presumer di se stessa troppo altamente. Vi sarà tale che crederà a se stessa d'esserne i ricami di un'aracne, ed appunto come tale la competerebbe con Minerva, sebbene i suoi lavori riescano ridicoli per le estreme imperfezioni che in esse si trovano. Abbonda nei chiostri chi fa professione di apportatrice di tutte le nove del mondo, di sapere gli interessi di ognuna, non mai però recitandone una giustamente vera, né proferendone uno sinceramente reale. Han sempre in pronto un artificio con che simulano pianto e riso a lor voglia, in modo che di lor può dirsi, come il San Nazaro di non dissimili, tal ride del mio ben che il riso simula, tal piange del mio mal che poi mi lacera, dietro le spalle con acuta limola. Son così ingannatrici che paiono simulacri degli uomini e non solo adulano, ma tradiscono anche se stesse. Fra quali taluna sarà per bruttezza deforme e nutrirà in sé pretensioni di uguagliarsi a Venere in beltà, sprezzando altra che rarissime bellezze possieda. Non poco è il numero di quelle che sciocche si stimeran poterla competere di saviezza con una sibilla. Altre, sfrontate e di lingua sfrenata, par che godono di trovar di continuo da contendere con chi si sia, onde chi non vuol dir spropositi o gridori, e gli è necessaria una rigorosa e ristretta solitudine. Ogni angolo ha una curiosa dei fatti altrui che va sempre inquietamente camminando con desio di veder novità, e non è piccio il vizio, mentre, come dice San Tommaso, è nello stesso tempo mala inclinazione non meno dell'intelletto che del senso. Curiosità radice è di calunnia. Sant'Agostino ci ammoniva a fuggir di ricercare e vedere per molti dispetti troppa varietà di cose. Queste, a guisa di quei mostri vili che hanno mille cori e mille facce, per dar dimostrazioni esterne diverse dall'interno dell'animo, usan di vestire e mangiar comunemente con quelle a cui portano rancore sotto pretesto di amicizia. E da queste poi, perché ad un male è sempre l'altro congiunto, nasce l'invidia di che, parlando, Seneca dice: né dobbiamo guardarci più da quella che regna nascosamente, né nostri amici animi, che dalla scoperta dei nemici. Poi, che da coloro che dimostrano l'odio scoperto non è difficile cautamente difendersi, sì come riesce quasi impossibile il sottrarsi da quelli dai quali, tenendo ascosa nel cor l'invidia, non s'attende l'inganno. In un terreno in cui sostenta talvolta la verga del comando, la più spinosa delle piante, non è maraviglia che nascan triboli di scandoli e t'altro non germogli che sterpi acuti di mormore, alle quali Dante, nell'inferno suo, attribuisce sì atroci pene che fa esclamar i mormoratori. Un diavolo è qua dentro che n'ancisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma. Ma di tal mormora né anch'i secolari ne van con vanto, e t'ha ragione in qualche conventicola di tal spine, dell'iniquità di questi sacrilegi prodotte. Trovansi lingue più del maladicente aretino, pungenti, per sottrarsi dalle quali non basta un'immaculata coscienza, se merita nome di venenose serpi, mentre par, appunto, che bramino triplicata la lingua per più poter offensivamente dir male d'ogni azione altrui. Sognansi favole per rappresentar le veraci storie, forman invenzioni di testa e le narran per sogni. Ad altre, addossano le proprie composizioni, per il che direi che meritassero il castigo che fu dato al corvo per gli importuni suoi rapporti, quando non fosse maggior fallo malignamente inventar che giustamente riferire. Non è a questi proprio il prudente raccordo che ad ogni maledico vien dal traduttor d'Ovidio portato. Maledicolo quace fatti esperto, si mal non vuoi cangiar mantello e viso, si in giudizio non sei per forza stretto, non iscoprir giammai l'altrui difetto. L'ingratitudine ha quivi più che altrove il suo seggio, perché affaticati pure da pagar l'instabil desio di questi corpi, in vita all'inferno condannati da chi vuol farsi simile a Dio e studia pur da pagare ogni volontà, impiegando ogni affetto e potere in favorirle, che nulla hai fatto né intieramente ad ogni lor ghiribizzo satisfi. Plauto, dei ingrati parlando, dice esser natura d'uomo da poco ma sfrontato, il farsi da ogni uno servire senza però mai nulla di ciò che in suo servigio venga operato gradire. Il filosofo, dispregiator delle ricchezze, esprime dell'ira scrivendo tal sensi. Non solo riesce affannoso, ma di grave pericolo il contrattar con uomo ingrato, poiché questi è facile a risolversi di non satisfar a ciò che deve e t'aborre colui a cui è debitore, in guisa che avendo alcun seco comune amico operato, ritrova altro non aver fatto che acquisto di mortal nemico. Non altrove sono frequentati gli eccessi di ingratitudine che nei monasteri, da quelle che forzatamente vi son chiuse, fra le mura dei quali, pur che conseguischi l'intento loro, l'ingrate non ha mira di ricevere beneficio, ingannare e tradire in un punto.